Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. «Si può entrare?» disse Saint-Mazel. Luc, Lambert e Scriassin lo seguivano. «Vi aspettavo!» Salvo Luc, che trascinava con aria addormentata i suoi grandi piedi gottosi, avevano tutti l'aria di chi viene a reclamare dei conti. Si sedettero intorno alla scrivania. «Confesso di non capire bene lo scopo di questa riunione», disse Henri. «Vado da Dubreuil tra poco. Appunto, bisogna che prendiamo una decisione prima che l'incontriate», disse Saint-Mazel. «Vorrei che decidessimo fin d'ora che, in caso di opposizione da parte di Dubreuil, il giornale si staccherà dall'SRL e pubblicherà senz'altro quei documenti». «Cercherò di convincerlo», disse Henri, «ma non ho intenzione di staccarmi dall'SRL». «L'SRL esiste ancora. Sono già 3 mesi che dorme», disse Saint-Mazel. «Da 3 mesi l'SRL non fa più niente per frenare l'offensiva comunista», disse Scriassin. «Da 3 mesi la stampa comunista non attacca più Dubreuil. E c'è un'ottima ragione. Una ragione che ci farà vedere la situazione sotto una luce affatto nuova». Fece una pausa teatrale. «Dubreuil è iscritto al Partito Comunista dalla fine di giugno. Hanno visto la sua tessera e la sua scheda». «Non ti credo», disse Henri. «Posso farti incontrare con uno dei miei informatori», disse Scriassin allungando la mano verso il telefono. «Lo chiederò a Dubreuil e a lui solo», disse Henri. S'avviarono alla porta, ma Lambert restò piantato davanti alla scrivania. «Avresti dovuto accettare di incontrare gli informatori di Scriassin», disse. «Dubreuil è tuo amico, ma è anche il principale responsabile del tuo gruppo politico. Con la scusa della fiducia in lui, tu tradisci la fiducia che gli altri hanno posto in te». «Prima di tutto devo parlargli, poi vedremo», disse Henri. «Sì, vedremo», disse Lambert avviandosi alla porta. «Sì», ripeteva Henri salendo la scala di Dubreuil. «O parlare ha un senso, o niente ha senso. Bisogna parlare. E Dubreuil, a meno che non sia effettivamente iscritto al partito, dovrà essere dello stesso parere». Suonò il campanello. «Se Dubreuil è iscritto, me lo dirà?» «Allora, come va?» disse Dubreuil. «Come va il teatro? Nell'insieme la critica è ottima, no?» Henri ebbe l'impressione che quella voce cordiale suonasse falsa, forse perché in lui stesso qualcosa suonava falso. «È buona», disse. Alzò le spalle. «Vi dirò che ne ho fin sopra i capelli di questo teatro. Tutto quel che chiedo è di poter pensare ad altro». «Lo so», disse Dubreuil. «C'è qualcosa di nauseante nel successo», sorrise. «Non siamo mai contenti. Ma neanche l'insuccesso è piacevole». Si sedettero nello studio e Dubreuil riprese. «Ebbene, abbiamo giusto da parlare d'altro». «Sì, e sono impaziente di sapere cosa pensate», disse Henri. Dubreuil lo guardò. «Secondo me non dovremmo pubblicare proprio niente, e vi spiego perché». Henri sentì un piccolo colpo al cuore. «Così sono gli altri che hanno visto giusto», pensò. Interruppe Dubreuil. «Volete soffocare lo scandalo?» «Sapete bene che in tutti i modi non sarà soffocato. La stampa di destra ci sguazzerà a piacere, e lasciamole questo piacere. Non è compito nostro aprire un processo contro l'Unione Sovietica». «Devo farvi una domanda», disse Henri. «Fatela». «Certi pretendono che da qualche tempo siete iscritto al Partito Comunista». «Dicono questo», disse Dubreuil. «È una voce che corre». Dubreuil alzò le spalle. «E voi l'avete presa sul serio?» «Se vi foste iscritto», disse Henri, «non suppongo che mi avreste mandato una partecipazione». «Ma certo che l'avrei fatto», disse Dubreuil con veemenza. Aveva l'aria sincera, ma era la stessa aria che avrebbe avuto se avesse mentito. Henri riprese con voce neutra. «Al giornale tutti sono decisi a parlare. Lambert ha detto che lascerà l'Espoir se non parliamo». Dubreuil rifletté un secondo. «Ebbene, se Lambert se ne va, ricompro io la sua parte». «Voi?» «Il giornalismo non mi diverte, ma è il miglior modo di difenderci. Riuscirete sicuramente a convincere Lambert a rivendermi la sua parte. Quanto ai soldi, m'arrangerò». Henri restò disorientato. «Ma c'è qualcos'altro», disse Henri seccamente, «ed è che anch'io voglio parlare». Si squadrarono un istante in silenzio. «Riunirò immediatamente il comitato», disse infine Dubreuil, «e se è d'accordo con me, vi sconfesseremo pubblicamente». «Sarà d'accordo», disse Henri. S'avviò alla porta. «Sconfessatemi. Io vi risponderò». Henri si mise subito al lavoro. Descrisse nelle sue grandi linee, sulla base dei documenti, il regime penitenziario dell'Unione Sovietica e ne pose in rilievo il carattere scandaloso. Ma ebbe gran cura di far osservare che, da una parte, gli errori dell'Unione Sovietica non scusavano in alcun modo quelli del capitalismo e che, d'altra parte, l'esistenza dei campi condannava una certa politica, non il regime nel suo insieme. In un paese in preda alle maggiori difficoltà economiche, i campi rappresentavano probabilmente una soluzione di facilità e si poteva sperare che fossero aboliti. Bisognava che tutti quelli per cui l'Unione Sovietica incarnava una speranza e i comunisti stessi mettessero tutto in opera per ottenere questa abolizione. Il solo fatto d'averne divulgato l'esistenza modificava già la situazione. Era per questo che l'Espoir aveva preso la parola. Tacere sarebbe stato disfattismo e viltà. L'articolo comparve la mattina dopo. Lambert se ne dichiarò scontentissimo e Henri ebbe l'impressione che in sala di redazione si discutesse forte. La sera un fattorino portò la lettera di Dubreuil. Il comitato dell'SRL aveva escluso Perron e Saint-Mazel. Il movimento non conservava più alcun legame con l'Espoir, di cui si deplorava che sfruttasse a profitto della propaganda anticomunista dei fatti che potevano essere giudicati solo attraverso una perfetta conoscenza d'insieme del regime sovietico. Il Partito Comunista, quale che ne fosse l'esatta portata, era oggi la sola speranza del proletariato francese e cercare di screditarlo significava porsi al servizio della reazione. Henri scrisse immediatamente una risposta. Accusò l'SRL di cedere al terrore comunista e di tradire il proprio programma iniziale. Il primo articolo era apparso il giorno prima e già una quantità di lettori lo felicitava, l'insultava, si stupiva. C'era un telegramma di Volange. Vecchio mio, ti stringo la mano. Anche Julien si congratulava, in uno stile elevato affatto sorprendente. Il guaio era che tutti sembravano credere che l'Espoir stesse per diventare un duplicato del Figaro. Si sarebbe dovuto rimettere le cose a posto. Henri alzò il capo. «Altri telegrammi di rallegramenti», disse Saint-Mazel gettando i dispacci sulla scrivania di Henri. «Possiamo dire di aver sollevato l'opinione pubblica», aggiunse con aria soddisfatta. A sinistra, Saint-Mazel non aveva avuto il successo che sperava. Nulla ora gli sembrava più naturale che passare a destra, tanto più che si interessava solo al numero dei propri ascoltatori e non al senso dei propri discorsi. Aveva proposto a Henri gli articoli di Volange, parlava con sobria simpatia del programma dell'Unione Gollista. Henri fingeva di non comprendere le sue insinuazioni, ma era un'astuzia inutile. Saint-Mazel si decise ben presto ad attaccare apertamente. «Ci sarebbe una bella partita da giocare per chi volesse davvero costruire una sinistra indipendente», disse con aria disinvolta. «Scriassin ha ragione di pensare che l'Europa non potrà sopravvivere senza l'appoggio degli Stati Uniti. Il nostro compito dovrebbe essere di coalizzare a favore di un autentico socialismo tutte le forze che s'oppongono alla sovietizzazione dell'Occidente. Accettare l'aiuto americano in quanto ci è dato dal popolo americano. Accettare un'alleanza con l'Unione Gollista in quanto questa possa essere orientata verso una politica di sinistra. Ecco il programma che proporrei per noi». Fissò su Henri uno sguardo severo e imperioso. «Non contate su di me per attuarlo», disse Henri. «Io continuerò a combattere con tutte le mie forze la politica americana. E voi sapete benissimo che gollismo e reazione fanno tutt'uno». «Temo che non comprendiate bene la situazione», disse Saint-Mazel. «Avete un bel circondarvi di precauzioni. Eccoci già catalogati tra gli anticomunisti e questo ci fa perdere la metà dei lettori. Il giornale potrà vivere solo se ne acquisterà degli altri e il solo modo per acquistarli è di non restare a mezza strada, ma di continuare decisi per la strada che abbiamo preso». «Cioè diventare effettivamente un giornale anticomunista», disse Henri. «Niente da fare. Se dovremo fallire, falliremo, ma conserveremo fino all'ultimo la nostra linea politica». Thank you. Avete letto l'enclume? Chiese Samazel con aria soddisfatta due giorni più tardi. Gettò il settimanale sul tavolo di Henri. Leggetelo. Cosa c'è di speciale sull'enclume? Disse Henri con noncuranza. Un articolo di La Chaume su di voi, disse Samazel. Leggetelo. Lo leggerò più tardi, disse Henri. Appena Samazel se ne fu andato, aprì il giornale. Via la maschera, era il titolo dell'articolo. Man mano che leggeva, Henri sentiva la collera serrargli la gola. La Chaume spiegava, a colpi di citazioni tronche e di riassunti tendenziosi, che tutta l'opera di Henri tradiva una sensibilità fascista e sottintendeva un'ideologia reazionaria. Il suo lavoro di teatro, tra l'altro, era un insulto alla resistenza. C'era in lui un fondamentale disprezzo degli altri uomini. Gli articoli odiosi che aveva ora pubblicato sull'Espoir lo dimostravano di là da ogni dubbio. Sarebbe stato più onesto se nel momento in cui scatenava quella campagna di calunnie si fosse dichiarato apertamente anticomunista, invece di affermare la sua simpatia per l'Unione Sovietica. La grossolanità di questa astuzia mostrava chiaramente in quanta poca stima tenesse i suoi simili. Le parole traditore e venduto non erano scritte in tutte lettere, ma le si poteva leggere tra le righe. Ed era La Chaume che aveva scritto questo. La Chaume. Henri lo rivedeva mentre con aria allegra dava la cera ai pavimenti di Paul, al tempo in cui viveva nascosto nel suo studio. Lo rivedeva alla Gare de Lyon, infagottato in un cappotto troppo grande e tutto imbarazzato della propria emozione al momento degli addii. Una collera rossa gli salì agli occhi. «Sa benissimo che non sono fascista e che non lo diventerò mai», pensò. S'alzò. A rispondere a quell'articolo non ci pensava nemmeno. Non c'era niente da dire che La Chaume non sapesse già. Quando le parole non hanno più senso, non resta più che servirsi dei pugni. Prese l'automobile e si diresse al Bar Rouge, dove trovò Vincent che beveva con gli amici. «La Chaume non c'è?» «No». «Allora deve essere a L'Enclume», disse Henri tornando verso la porta. «Non so», disse Vincent. S'alzò e lo seguì. «Hai la macchina, vado al giornale». «Io non ci vado», disse Henri. «Vado a L'Enclume». Uscirono in strada e Vincent si fermò. «Lascia perdere», disse. «Hai letto il suo articolo?» «La Chaume me l'ha fatto leggere prima di consegnarlo e io mi sono guastato con lui. È una bella porcheria». «Ma che ti servirebbe di fare uno scandalo?» «Non mi capita spesso di voler fare a pugni», disse Henri. «Ma questa volta è un bisogno. Se ne verrà uno scandalo, tanto meglio». «Hai torto», disse Vincent. «Ne profitteranno per ricominciare e andranno anche più lontano». «Più lontano?» disse Henri. «Ma hanno già trattato da fascista, come possono andare più lontano? E in ogni modo me ne strafrego». Aprì lo sportello della macchina. Vincent lo prese per un braccio. «Sai», disse, «quando hanno deciso di rovinare qualcuno, non indietreggiano davanti a niente. C'è un punto debole nella tua vita. È lì che ti colpiranno». Henri lo guardò. «Un punto debole? Parli di Josette e dei pettegolezzi che si fanno sul suo conto?» «Quando La Chaume ha fatto vedere l'articolo, gliene ho dette tante che si è deciso a tagliarne 10 righe. Ma la prossima volta vuoterà il sacco». Henri tacque. «Povera Josette, così vulnerabile». Rabbrividì pensandola nell'atto di leggere quelle 10 righe che La Chaume aveva tagliato. Si mise al volante. «Sali, andiamo al giornale, hai ragione tu». E aggiunse, avviando il motore. «Grazie». Arrivarono al giornale e Henri scese. «Ho da fare un momento», disse. «Verrò tra poco». Non aveva niente da fare, ma voleva restar solo 5 minuti. Se ne andò a passi lenti. S'era cullato in luoghi comuni vecchi di anni, vecchi di secoli, di cui nessuno comprendeva più il senso. Avversario leale, combattersi nella stima. «In verità mi odiano», si disse. Continuò a camminare a caso. Parigi era bella e malinconica, come Bruges la morta sotto gli ori fumosi dell'autunno, ma l'odio gli era intorno, l'incalzava. Era un'esperienza nuova, abbastanza paurosa. «L'amore», pensò, «non è mai precisamente a noi che si rivolge. L'amicizia è precaria come la vita. Ma l'odio ha una mira che non fallisce mai ed è sicuro come la morte». Scriassin era ad aspettarlo nel suo ufficio. «Ha letto l'enclume», si disse Henri. «Hai da parlarmi?» chiese. «Son venuto a chiederti se non avessi cambiato opinione dopo l'articolo di Lachaume». «No», disse Henri. «E non la cambierò». Ci fu un silenzio. «Risponderai a Lachaume?» chiese Scriassin. «Certamente no». «È un peccato. Quando vuoi sai difenderti. La risposta di Breuil è stata una bellezza». «Sì, ma è stata giusta», disse Henri. «Mi chiedo se il tuo informatore fosse davvero informato». «Che informatore?» «Quello che dice d'aver visto la tessera di Dubreuil e la sua scheda». «Oh», disse Scriassin con un leggero sorriso, «non è mai esistito». «Non è possibile. Avevi inventato tutto». «Ai miei occhi Dubreuil è un comunista, iscritto o no, ma non avevo modo di farti condividere il mio convincimento, così ho un po' barato. Sei arrabbiato?» «Non riesco a capire come si possano fare cose simili», disse Henri. «In realtà t'ho reso un servizio», disse Scriassin. «Mi permetterai di non ringraziarti?» Scriassin sorrise senza rispondere. «Bisogna che vada al mio appuntamento». Henri restò a lungo immobile, lo sguardo fisso. Se Scriassin non avesse inventato quella frottola, cosa sarebbe successo? Forse le cose sarebbero andate nello stesso modo. Forse no. In ogni modo, il pensiero d'aver giocato con carte truccate l'esasperava e gli dava una voglia bruciante di tornare indietro. Decise di non farsi più scrupoli e di agire come meglio gli fosse piaciuto. Al punto in cui era, niente aveva più importanza. Tuttavia, la sera in cui si trovò a tavola tra Lucie Bellhomme e Claudie de Belzance davanti a una bottiglia di champagne troppo zuccheroso, fu preso da un improvviso stupore. «Cosa faccio qui?» Non gli piaceva lo champagne, né i lampadari, né gli specchi, né il velluto dei sedili, né queste donne che esibivano con abbondanza una pelle sfiorita. Gli altri, se avessero potuto sentirlo e vederlo, avrebbero fatto coro per biasimarlo, ma era appunto per questo che era qui, tra questa gente, perché non avrebbe dovuto esserci. Aver torto, radicalmente torto, senza riserve e senza scuse. Che riposo! Si finiva per averne abbastanza di chiedersi senza posa ho ragione o torto. Questa sera almeno era sicuro della risposta. Ho torto. Ho perfettamente torto. S'era guastato per sempre con Dubreuil. L'SRL l'aveva sconfessato e la maggior parte dei suoi antichi compagni non poteva pensare a lui senza un brivido di scandalo. A L'Enclume, Lachaume e i suoi compagni e quanti altri in tutta Parigi, in tutto il paese, lo chiamavano traditore. Allo studio 46 le mitragliatrici crepitavano, i tedeschi bruciavano un villaggio francese e la collera e l'orrore si risvegliavano nei cuori intorpiditi. L'odio fiammeggiava dovunque. Era questa la sua ricompensa. L'odio, un odio che non c'era mezzo di vincere. Forse un mezzo c'era. Bere. Ora capiva Scriassin. Si riempì di nuovo il bicchiere. «È coraggioso quel che avete fatto», disse Lucie. «Che cosa? Denunciare tutti quegli errori». «Oh, se è per questo la Francia conta migliaia di eroi», disse Henri. «Attaccando l'Unione Sovietica oggi non si rischia di essere fucilati». «Buonasera», disse Josette posando sul tavolo la sua piccola borsa a pagliuzze. Portava un vestito verde dalla scollatura generosa. Henri non riusciva a capire perché, visto che il desiderio dei maschi la feriva, ella si offrisse così prodigamente ai loro sguardi. La ragazza sedette accanto a lui, in fondo alla tavola, ed egli le chiese: «È andata bene? Non hanno fischiato?» «Oh, per te un trionfo!» Nell'insieme la critica non era stata troppo cattiva per lei. Un debutto come ce ne sono tanti. Con quel fisico e con della pazienza, aveva tutte le probabilità di fare una carriera onorevole. Ma era delusa. Il suo viso s'animò. «Hai visto? A quel tavolo in fondo c'è Felicia Lopez. Com'è bella!» «Mia cara», disse Lucie sorridendo a fior di denti, «non dire mai davanti a un uomo che un'altra donna è bella, perché potrebbe immaginarsi che tu lo sei meno». «Josette può permettersi d'essere franca», disse Henri. «Non ha niente da temere». «Da voi forse no», disse Lucie in tono vagamente sprezzante, «ma ce ne sono altri che non si divertirebbero affatto a vedersi davanti questa faccia piagnucolosa. Versatele da bere. Una bella donna deve essere allegra». «Non voglio bere», disse Josette. Aggiunse con voce più debole: «Ho una bollicina all'angolo della bocca». «Che generazione!» disse Lucie alzando le spalle. Quel che c'è di bello quando si beve, disse Henri, è che si finisce per essere ubriachi. Non sarai ubriaco, disse Josette con inquietudine. Oh, ubriacarsi con lo champagne sarebbe una fatica d'Ercole. Allungò la mano verso la bottiglia, ma Josette gli fermò il braccio. Tanto meglio, perché ho qualcosa da dirti, esitò, ma promettimi prima che non t'arrabbierai. Non posso promettere senza sapere. Allora vuol dire che non m'ami più, disse Josette con impazienza. E va bene, di. Ecco, ho concesso un'intervista a L'Ève Moderne l'altra sera. E cosa hai raccontato? Ho detto che eravamo fidanzati. Non è affatto per obbligarti a sposarmi, aggiunse vivamente. Annunceremo la nostra rottura quando vorrai, ma ci vedono sempre insieme. E questo fidanzamento, capisci, mi dà un tono. Prese dalla borsa una pagina di rivista che spiegò con aria soddisfatta. Per una volta hanno scritto un articolo carino. Fa vedere, disse Henri. Sei arrabbiato, disse Josette. Non sono arrabbiato per niente, disse. E pensò deciso. Che vadano tutti all'inferno. Thank you.